4 mattino. Bonafede rivendica la sua discrezionalità nella scelta, ma ci si può chiedere che cosa gli vieta di spiegarlo agli italiani, di cui è un impiegato, è pagato. Quindi la sua discrezionalità va spiegata, è il minimo che possa fare. Sono un operatore del settore della grande distribuzione. Riguardo le mascherine che non si trovano, ce ne sono a migliaia nei supermercati, soltanto che dopo la comunicazione di Arcuri sulla vendita a 50 centesimi è arrivato l'ordine di ritirarle, perché ovviamente a 50 centesimi l'una si è ampiamente sotto il costo a cui si sono pagate. Grazie. Mascherine, vabbè, io ieri ne ho comprate 500 per la ditta, sono mascherine chirurgiche. Mi sembra che le avevamo pagate tipo 0,85 l'una. Sono Desiree da Nonantola, nel mio comune, provincia di Modena. Il sindaco ha reso disponibili delle mascherine gratuite e le ha fatte distribuire. In più, nella farmacia Meschiari del nostro paese le vendono a 50 centesimi l'una. Oh, quindi sotto i 50 centesimi più IVA, sentito? Sentito? Poi però c'è il tema che ci sottoponeva l'ascoltatore. Su questo il commissario Arcuri aveva promesso, aveva annunciato degli accordi proprio con la grande distribuzione, dicendo: vi rifonderemo noi dei soldi che perderete per queste mascherine. Evidentemente qualche meccanismo non sta funzionando con questa ipotesi dei 50 centesimi a mascherina, 50 centesimi più IVA, a dire il vero. La questione Bonafede, l'ascoltatore probabilmente si riferiva agli atti di discrezionalità dei giudici di sorveglianza, che sono loro che decidono chi mandare ai domiciliari, e quindi in questo caso anche i boss. Ci torneremo tra un attimo su questa vicenda in questo giovedì 7 maggio alle 7:19 minuti, momento nel quale inizia la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo ancora qua. E spero che ci siate anche voi. Al 349-238-6666 le vostre voci, non solamente sulle mascherine, su quello che volete, comprese le vicende che hanno a che fare con la sanatoria proposta da Italia Viva, sostenuta dal PD, non voluta dal Movimento 5 Stelle, e anche la questione dei boss scarcerati. Oppure tutto quello che vi pare. Siamo qua, siamo qua, siamo anche in diretta a Facebook, come sempre. Ci trovate sulla pagina di 24 Mattino. Le prime pagine dei quotidiani, le aperture, che sono dedicate in parte alle riaperture. Il Messaggero, riaperture dal 18, Conte accelera, è questo il titolo. Si parla anche del passaporto sanitario per salvare il turismo, controlli sui singoli. Corriere della Sera, riaperture Conte accelera, anche qua lo troviamo. Il Quotidiano Nazionale, il virus è mutato, ora è più debole, sono le parole di un epidemiologo del Campus Biomedico di Roma, dell'Università Campus Biomedico di Roma, tra l'altro intervenuto ieri alla Camera. E il titolo centrale è proprio sul caos in maschera, questo è il titolo del Quotidiano Nazionale. Protezioni difficili da trovare, il calmiere peggiora le cose, molti rivenditori le hanno già pagate più di 50 centesimi. La Repubblica sceglie la vicenda della mafia e dei boss. Bonafede ci ripensa, ma ora c'è il rischio fuga, racconta La Repubblica. Ci arriveremo anche a questo punto. Sanatoria per colpa ai migranti è l'apertura della Stampa ed è tra virgolette perché è un'intervista al presidente dell'INPS Pasquale Tridico, il quale si dice d'accordo con la proposta di Italia Viva e del PD. Multe ai disperati è il titolo del giornale, i ristoratori in piazza a Milano, la sanzione da 400 euro, ci arriviamo al racconto di questa vicenda, anzi ci arriviamo in apertura. Il Fatto Quotidiano anche qua sui boss, fase 2 per i boss, tutti dentro. avvenire la regola della dignità sulle parole del Papa, no? Lo sfruttamento dei braccianti, e qua si torna su questo stesso tema della sanatoria, così come sul tema della sanatoria è l'apertura del Manifesto, il titolo è Campi Minati, è un gioco di parole ovviamente riferendosi a quello che succede nel governo. Libero, i quattrini promessi dal governo non arrivano perché non ci sono. La Verità, perché questo governo deve andarsene a casa. Il Foglio ha l'apertura dedicata a un pezzo di Daniele Raineri che ci racconta che il Covid-19 strisciava in Francia e in Italia prima di Natale e in Cina a novembre. Ora di riscrivere, dice, la storia della pandemia. E il Sole 24 Ore, fisco e contributi, rinvio a settembre per i pagamenti di oltre 20 miliardi. E a centro pagina la crisi epocale, i dati arrivati ieri da Bruxelles, previsioni di primavera, un calo del 7,7% del PIL dell'Eurozone, del 9,5% per l'Italia. Iniziamo dunque questa rassegna stampa e iniziamo da singole storie, e forse la storia che più ha colpito tutti è quella che trovate un po' su tutti i quotidiani, ma in maggiore evidenza, come avete visto, ci dedica l'apertura su Il Giornale, è la storia appunto dei ristoratori multati. Siamo a pagina 3 del Giornale. Il racconto è di Cristina Bassi ed è la storia appunto dei ristoratori di Milano, una ventina in tutto, quindi anche un numero limitato. Si sono ritrovati all'Arco della Pace, a Parco Sempione, hanno messo le loro sedie alla giusta distanza e per protestare per il rischio, i mancati aiuti, le difficoltà per la riapertura, e a un certo punto arriva la Digos, multe alla disperazione, un flash mob all'Arco della Pace nel centro di Milano promosso da ristoratori, baristi e gestori di esercizi pubblici. Dopo qualche ora è arrivata la Digos e sono scattate le sanzioni per violazione del divieto di assembramento previsto dalle misure anticontagio. Multe alla disperazione, dice appunto Cristina Bassi. Hanno multato anche noi dipendenti, racconta in lacrime una cuoca che si era unita al titolare. Ci hanno chiesto i documenti e poi ci hanno fatto il verbale. Non abbiamo neppure manifestato, sono venuta qui a difendere il mio lavoro e adesso mi ritrovo 400 euro da pagare, un terzo del mio stipendio. Il paradosso di una categoria che non riesce a pagare l'affitto e viene stangata con multe salate. In tutto in piazza, ieri c'erano tra le 20 e le 30 persone, circa 15 sono state sanzionate. Sono più o meno 7.000 gli esercizi pubblici milanesi, secondo le stime il 20% non ce la farà a riaprire a giugno, si è sostanzialmente già arreso. E ieri appunto sono arrivate le multe, qualche ascoltatore ci faceva notare, diceva insomma la manifestazione in piazza Montecitorio e Giorgia Meloni l'altro giorno, e qualcun altro diceva e le manifestazioni per il 25 aprile e quelli che ballavano in strada a Milano, niente, multe appunto ai ristoratori. Certo, però l'assembramamento c'è stato, dall'altra parte va detto, l'assembramamento c'è stato, le regole sono quelle, i poliziotti quello probabilmente dovevano fare. E accanto a tutto questo, un po' tutti i giornali mettono in evidenza la storia di Antonio Nogara, 57 anni, imprenditore napoletano che ieri si è tolto la vita. E insomma, io qua, valutazione personale, prendetela per quello che è, io ho sempre l'impressione che quando si tratta di un suicidio, di qualcuno che si toglie la vita, sia sempre molto difficile attribuire il tutto ad una sola causa, anche se molti giornali naturalmente mettono il tutto in relazione con la crisi e i problemi da Covid-19. Fulvio Buffi sul Corriere della Sera ci racconta che ovviamente lui parlava della crisi, del lockdown, dell'azienda di mobili e di allestimenti per negozi costretta a chiudere da un giorno all'altro e ad avviare la procedura per mettere in cassa integrazione i dipendenti. Ne parlava? No, non apertamente, almeno. Sua moglie ha voluto farlo sapere a tutti affidando un messaggio al sindaco di Cercola, siamo appunto nel napoletano, Vincenzo Fiengo. L'impresa di famiglia non era in crisi, aveva dovuto adeguarsi alle regole di questi mesi, ma era solida e probabilmente sarebbe riuscita a riprendere riprendersi nonostante la mazzata delle tante settimane di chiusura. Eppure, dice Buffi, Antonio aveva paura, era angosciato più che impaurito. E probabilmente, certo, insomma, questa componente è inevitabile che ci sia stata, però insomma non sappiamo, perché poi nella mente di una persona che si toglie la vita succedono tante cose e non possiamo sapere se sia stato solamente, no, la questione economica, o se sia entrato molto altro. La questione del lavoro e della sanatoria per i migranti, la proposta fatta dalla ministra Teresa Bellanova anche in modo perentorio, insomma, se non mi ascoltate io qua sono disposto a mettere sul piatto le mie dimissioni. E all'ombra di questo si genera uno scontro politico. Ieri avete sentito alle 8:20, ospite mio di Maria Latella, il capo del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, le sue dichiarazioni, poi le trovate oggi un po' su tutti i giornali, le dichiarazioni che ha rilasciato a noi ieri, quelle nelle quali dice no, di sanatoria non se ne parla, se si parla di regolarizzare il lavoro nero va bene, di far emergere il lavoro nero, ma di sanatoria per i migranti non se ne parla. Ha detto anche nel decreto maggio inseriremo la previsione, e questa era un'ipotesi lanciata da Fratelli d'Italia nelle settimane scorse, la previsione che possano andare a lavorare nei campi le persone che percepiscono reddito di cittadinanza o altri tipi di sostegno, facendo sì che i loro benefici vengano sospesi ma non eliminati, ossia ti fai questi 2 mesi di lavoro nei campi e poi puoi riprendere il reddito di cittadinanza, puoi riprendere la NASPI. E però guardate che la cosa interessante è che tra le due soluzioni, due spettri di soluzioni, non era quello che chiedevano le associazioni imprenditoriali agricole, e lo racconta perfettamente Giorgio Dell'Orefice a pagina 4 del Sole 24 Ore, e soprattutto sono norme eventualmente che arrivano in ritardo. Lo racconta bene, come dicevo, Giorgio Dell'Orefice sul Sole 24 Ore, che sente le due associazioni datoriali, quella delle imprese più grandi e quella delle imprese più piccole, e dicono sostanzialmente la stessa cosa. Non è questo quello che ci serviva. Quello che serve è la riapertura dei corridoi verdi con i paesi dell'est europeo per riportare in Italia lavoratori specializzati fuggiti all'inizio dell'epidemia. Quindi specializzati, perché non tutti possono fare tutti i lavori. Forse raccogliere i pomodori è più semplice, ma fare altri lavori in agricoltura, che è un sistema sempre più complesso, non è la stessa cosa. Il rinnovo dei permessi di soggiorno in scadenza il prossimo 15 giugno per gli addetti già in Italia, e soprattutto lo strumento dei voucher. Quest'ultimo però, lo sappiamo, ha incontrato la ferma opposizione dei sindacati e suscitato divisioni anche all'interno della maggioranza che sostiene il governo. Il tema però a questo punto è il ritardo con il quale tutto questo arriva. Insomma, voi lo sapete, ne parliamo da un mese anche da questi microfoni. Siamo in grandissimo ritardo, commenta il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Da mesi denunciamo la mancanza di lavoratori e prima che le misure diventino operative occorrerà ancora aspettare. Sono previsti adempimenti rigidi, almeno 6 mesi di contratto, quando nelle nostre aziende abbiamo bisogno di manodopera anche solo per 15 giorni. Temo che pochi dei 600.000 immigrati che si intende regolarizzare sarà impiegato in agricoltura. La natura non aspetta i tempi della politica, rischiamo di lasciare in campo una fetta rilevante dei raccolti. Dice anche il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, assisteremo a quantitativi di pesche e nettarine a marcire nei campi con i relativi prezzi che cresceranno allo scaffale, e presumibilmente pesche e nettarine che arriveranno da altri paesi. Un discreto ritardo. Detto ciò, il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, che insomma, come tutti ben sanno, e non è un mistero, no? È stato di fatto di nomina del Movimento 5 Stelle, voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle, prende una posizione sulla stampa che è divergente rispetto a quella del Movimento. E dice ad Alessandro Barbera, che lo intervista a pagina 3, che vanno regolarizzati subito. Facciamo come la Germania. Sono favorevole, l'ho sempre detto, e sarebbe ipocrita da nascondermi dietro al mio ruolo, dice Tridico. Dunque, è favorevole a una grande sanatoria? Il suo predecessore Tito Boeri l'ha chiesta per anni senza successo, insistendo sui benefici per i conti previdenziali. Non è solo questo, dice, ma i numeri parlano chiaro. Il contributo agli immigrati regolari non è irrilevante. Quanto pensa sarebbe opportuno regolarizzarne? Sono quelli necessari all'agricoltura? Ha qualche stima in merito? Non vorrei dare risposte merceologiche. Si tratta di scelte che spettano alla politica. Se devo dire la mia, sceglierei la strada della Germania. Durante l'ultima crisi siriana ha saputo coniugare le esigenze umanitarie con quelle dell'economia. E poi Tridico si sofferma su tutto il grande tema dei soldi in arrivo per lavoratori e per autonomi. Il bonus per gli autonomi, a oggi abbiamo pagato 3,7 milioni di assegni, quasi tutti fra il 15 e il 20 aprile, altre 900.000 domande erano da parte di persone che non avevano i requisiti o con qualche errore, circa la metà dovrebbero essere accolte. Ne approfitto, dice, per invitare alla precisione, nei moduli abbiamo trovato spesso l'indicazione della gestione previdenziale sbagliata, tra le altre cose, dice Tridico. A proposito dei migranti, c'è un altro fronte e lo troviamo sul giornale, anche questo in qualche sparso da qualche parte lo trovate, però prendiamo il giornale a pagina 7 che ci dà un po' più la misura di quello che è successo negli ultimi mesi con Fausto Biloslavo, Lampedusa è al collasso mentre vengono fermate due navi delle ONG. Nuovi sbarchi a Lampedusa nell'Agrigentino che portano i migranti arrivati dal 1 maggio a 604, 1 marzo suppongo a 604. Ormai sono 4.069 dall'inizio dell'anno rispetto agli 842 dello stesso periodo del 2019 ed i costi aumentano a causa della quarantena a bordo di navi ad hoc pagate dallo Stato quasi 1.200.000 euro al mese. A Lampedusa sono sbarcati nella notte fra martedì e mercoledì altri 156 migranti. Il sindaco Salvatore Martello ammette che siamo costretti a lasciarli sul molo perché non abbiamo una struttura libera. Ho chiesto di piazzare una nave di fronte al porto, non sarebbe il caso, gli dicono, che una volta a largo vengano trasferiti direttamente sulla terraferma. Martello spiega che l'isola è in ginocchio. Come si fa a parlare di ripartenza? Una pausa. Mattino. Le farmacie dicono che non hanno mai ricevuto ancora, che non hanno ancora ricevuto le mascherine e tentano di venderti quelle che una volta erano quelle di carta, le prime, che costavano 5,99 euro. Sì, ce n'erano una decina dentro, ma era tutta carta. Se invece di regolarizzare tutti i migranti dicessero: vuoi il reddito di cittadinanza? Bene, vai in campagna. Non sarebbe meglio? Caro Simone, questa mattina uscendo da casa c'erano già tutti i bicchierini per terra, le palettine del caffè, le bustine dello zucchero. Sinceramente preferivo il lockdown e il coronavirus piuttosto che l'inciviltà della gente. Questa storia dell'asporto ci sta sfuggendo di mano, eh? Non è che siamo entrati in Mad Max, nella barbarie. Se prendete qualcosa da sporto, buttate le cose nei cestini come facevate prima, gentilmente. Sulla questione reddito di cittadinanza, lavoro nei campi, è una cosa che si sta prevedendo all'interno del decreto. Comunque ci torniamo tra un attimo col nostro direttore Fabio Tamburini. Allora, visto che molte sollecitazioni ci sono arrivate sul tema delle mascherine, ripartiamo da qua, ripartiamo dal tema delle mascherine, perché molte pagine di giornali troviamo su questo, a partire dal giornale con Patrizia Tagliaferri, il flop dei prezzi calmierati, le mascherine introvabili. Cosa succede? Ci racconta, siamo a pagina 13, che molte farmacie cominciano a non averne più in magazzino e non vengono rifornite dalla Protezione Civile. In barba ai 12 milioni di pezzi al giorno che dovevano essere distribuiti dal 4 maggio, primo giorno della fase 2, un percorso ad ostacoli, quello del commissario Arcuri, per garantire mascherine per tutti. Fin dai primi giorni dell'emergenza, quando ha tentato, oltre alla strada degli acquisti con gara Consip, anche quella produzione made in Italy, coinvolgendo le aziende della moda che hanno riconvertito la produzione, ma evidentemente non è stato sufficiente. Qua un pezzo feroce di Alessandro Gnocchi, un commento feroce di Alessandro Gnocchi contro Arcuri, con questa idea, no, dei 50 centesimi a mascherina, e soprattutto le frasi pronunciate da Arcuri quando ha detto, ve lo ricorderete, i liberisti da divano, no? Quelli che chiamava i liberisti da divano con i loro cocktail che discettano dal divano, appunto, dei prezzi delle mascherine. Insomma, Gnocchi firma un pezzo che già dice tutto dal titolo: smacco per il commissario, bullo statalista. Insomma, qua molto in questa questione, in questo commento molto duro, nel quale si conclude tra l'altro dicendo che il problema delle mascherine è sul tavolo da un paio di mesi senza risultati apprezzabili, e se continua così finirà che il governo intero, i commissari e le infinite task force dovranno andare a nascondersi dietro ai divani dei liberisti senza godersi un cocktail o un centrifugato. Il tema viene affrontato anche da altri giornali. La caccia alle mascherine con il caos dei prezzi che resta, racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 4 con Rita Bartolomei. Più IVA, bisogna aggiungere l'IVA. Non è giusto dire che una mascherina si vende a 50 centesimi, costa 61. Non è giusto dire che ci sono perché non ci sono. Aspettiamo istruzioni. La sintesi di Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia, 3.000 associati su 18.000 nazionali. Fioccano inchieste in tutta Italia. La finanza di Arezzo ha sequestrato 72.000 pezzi. In una farmacia oltre 800 mascherine erano vendute come FFP2 marchio CE, ma non avevano le certificazioni previste. In Brianza un imprenditore dell'auto si era riciclato nel settore, peccato che i marchi fossero contraffatti. E poi tutto il tema della distribuzione, tra le vicende, come sapete, anche quella di Irene Pivetti, della quale abbiamo lungamente parlato nei giorni scorsi. Anche qua la Repubblica con un retroscena, le mascherine introvabili, Arcuri che dice a rischio il patto con le farmacie. Il pezzo è firmato da Marco Mensurati e Fabio Tonacci, è andato su tutte le furie, alle 12 ha convocato d'urgenza una riunione a cui erano presenti i distributori del settore e Federpharma Servizi, le coop dei farmacisti, gli stessi soggetti che venerdì scorso avevano garantito di avere in magazzino pronta consegna tra i 12 e i 14 milioni di pezzi. E lui dice, insomma, li chiama e dice: ma come mai questi pezzi non ci sono? E loro dicono: guardate che, no, guardi che in effetti erano solo 3 milioni e mezzo, il resto è in attesa di certificazione e quindi non è vendibile, e hanno chiesto una sorta di sanatoria per poter consegnare le giacenze non a norma. Questo è il racconto che emerge appunto dalla Repubblica, e Arcuri ha minacciato di far saltare il tavolo. Intanto vi voglio dire che a pagina 23 del Sole 24 Ore trovate un piccolo pezzo di taglio basso di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, che vi racconta che se avete comprato le mascherine e avete religiosamente conservato lo scontrino pensando che queste mascherine potessero essere detraibili, beh, sappiate che incredibilmente lo sono solamente quelle chirurgiche. Cioè, se avete comprato le FFP1, le FFP2, le FFP3, ossia quelle più avanzate rispetto alle chirurgiche, ebbene, sappiate che queste mascherine non sono, almeno al momento, detraibili, e lo sono solamente quelle chirurgiche. Un altro fronte è ovviamente quello della giustizia e dei boss scarcerati. Ieri la notizia arrivava dal quotidiano La Repubblica, che ci raccontava del fatto che in realtà i boss scarcerati non erano solo i 4 che erano usciti dal 41 bis ed erano andati ai domiciliari, ma erano molti di più, erano 374. 6 in tutto, compresi quei 4, quindi 372 colonnelli, per così dire, che a questo punto, ci racconta La Repubblica che apre il giornale su questo, sono a rischio di fuga. Cioè, questo si teme adesso. Persone che tra l'altro sono tornate sui loro territori di riferimento. Il pezzo ancora una volta di Salvo Palazzolo. che innanzitutto ci chiarisce bene questo. Per comprendere appieno il peso dei 376 nomi bisogna dimenticare la sequenza burocratica fatta dal DAP, che non indica alcuna gerarchia di pericolosità. Bisogna piuttosto mettere i cinque fogli della lista uno accanto all'altro. Da una parte i boss che indagini e sentenze indicano come i capi di Cosa Nostra, dall'altra i padrini dell'Andrangheta, i camorristi, gli uomini della Sacra Corona Unita. In provincia di Palermo, all'improvviso sono ai domiciliari alcuni dei colonnelli più pericolosi della Cosa Nostra, che è stata fedele a Riina e Provenzano. Giuseppe Libreri, che ha lasciato il carcere il 23 marzo, è il capo della famiglia di Termini Merese. Nel 2010 gli avevano sequestrato un tesoro da 14 milioni di euro, ma lui continua ad imporre il suo ricatto agli imprenditori per gli appalti dell'Interland. Poco più in là, in provincia, è tornato Stefano Contino, capo mafia di Cerda. E ancora, in un trafiletto si racconta che ai domiciliari sono tutti i numeri uno delle cosche di Vibo Valentia, e oggi a Roma torna in libertà la donna al vertice dei Casa Monica. Ma soprattutto adesso quello che si teme appunto è la fuga. I controlli delle forze dell'ordine sono aumentati, soprattutto la notte. Si fa forte il rischio che qualcuno, magari giovani boss, con la prospettiva di diversi anni ancora da scontare, decidano di darsi alla fuga, oppure mediti di organizzare summit o nuovi affari di droga, ci racconta Salvo Palazzolo a pagina 4. Altri racconti sono quelli che troviamo per esempio sul Corriere della Sera a pagina 8. Nell'elenco dei detenuti ai domiciliari c'è anche Franco Cataldo, uno dei carcerieri del figlio di Santino Di Matteo, sciolto nell'acido. Chi partecipò al suo sequestro deve rimanere in carcere a vita, perché la mia sofferenza non avrà mai fine, si è sfogata la madre con l'ADN Cronos. E poi il Fatto Quotidiano ci porta, forse per primo, all'interno di un ragionamento che ha a che fare. Ricorderete che agli inizi del lockdown ci furono una serie di rivolte nelle carceri. Ebbene, queste rivolte nelle carceri furono delle rivolte spontanee, oppure si furono forse proprio questi capi mafia a stimolare queste rivolte per ottenere una serie di benefici? Ebbene, qua il sospetto lo fa balenare un pezzo di Giuseppe Pipitone a pagina 4. A protestare contro il rischio contagio nelle celle sono stati soprattutto i detenuti comuni, quelli delle terze brande, come li chiamano in gergo gli uomini della polizia penitenziaria. Nei letti a castello dormono più in alto perché contano meno. I capi invece no. Loro stavano fermi e tranquilli, un elemento che, sommato alla contemporaneità delle ribellioni, 22 penitenziari esplosi quasi nelle stesse ore tra il 7 e il 9 marzo, ha rafforzato negli inquirenti un sospetto. Quelle rivolte erano coordinate da un'unica regia criminale. L'obiettivo era sfruttare l'emergenza per ottenere qualche beneficio. Anche per questo motivo i provvedimenti varati dal governo escludevano i condannati per mafia dalla possibilità dei domiciliari. Ma come avete capito, insomma, le cose non sono andate come ci si aspettava. Oh, a proposito di boss, fatemi chiudere con questa. Così, mi viene da dire, lo so che è brutta detta così, le vecchie abitudini non muoiono mai. Siamo a Napoli e siamo sul Messaggero a pagina 14, un pezzo di Dario Sautto che ci racconta innanzitutto di un agguato nei confronti di Giuseppe Carpentieri, 50 anni, metà dei quali trascorsi in carcere per due omicidi, tornato libero a febbraio dopo 27 anni di carcere. Insomma, gli sparano, si sta godendo il sole del primo pomeriggio, gli arrivano due proiettili classico calibro 9, due l'hanno raggiunto alle cosce all'altezza dell'inguine, gli altri non sono andati a segno, i cecchini scappano via, dopodiché lui viene portato in ospedale, viene portato al pronto soccorso. La famiglia Carpentieri Gionta si precipita all'ospedale sbagliato, quello di Bosco Trecase, che ormai da due mesi non ha più il pronto soccorso ma è totalmente convertito per accogliere i pazienti infetti da coronavirus o sospetti. Scattano le minacce, la rabbia di parenti e amici del ferito, sfondano un vetro, i pannelli divisori, e poi arrivano carabinieri e polizia. Per fortuna nessuno ha aggredito il personale medico, però l'ennesimo episodio di questo genere, tra l'altro nell'ospedale sbagliato e in un ospedale dedicato a Covid. Traffico. Mattino. E siamo col nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini, per il nostro appuntamento del giovedì. Fabio, buongiorno, eccoci, come va? puntuale come un treno svizzero. Ah, fantastico, fantastico. Allora Fabio, inizierei dalla questione agricoltura, che è anche un problemino politico, niente male per il governo. Prima abbiamo letto il pezzo di Dell'Orefice nel quale ci raccontava che in realtà tra tutte le soluzioni che vengono proposte a livello politico le aziende ne vorrebbero altre, a partire dai corridoi verdi dai paesi dell'est e passando per i voucher. Qui c'è un problema a cui si sta girando intorno, e cioè, ed è facile, quanto vengono pagati le persone che lavorano nei campi. Allora, purtroppo c'è una piaga da cui questo paese non riesce a liberarsi, e cioè il lavoro sommerso, il lavoro nero. Le paghe sono miserrime. Questi lavoratori lavorano per una parte importante in nero, sono utilizzati tramite il caporalato, e questo è un problema. La pandemia, il coronavirus, ha acceso i riflettori su una realtà che tutti conoscono, ma che si faceva finta di ignorare. Qui questo è il nodo, è il problema dei problemi. Come uscirne? Certamente la frutta e la verdura, i tempi di maturazione non aspettano, non è che si può fare slittare la soluzione di questo problema. Quindi, come si suol dire, il toro andrebbe preso per le corna. La verità è che se ne sta parlando da settimane, ma la situazione non si schioda. Il tempo stringe, ripeto, frutta e verdura non è che rinviano la maturazione in attesa di soluzione del problema, il problema esiste, è grande, mi pare che sia un altro dei problemi che questo governo non riesce a risolvere. Sì. Fitto il dossier del Sole 24 Ore a pagina 4, nel senso che oltre al pezzo di Giorgio Dell'Orefice che abbiamo citato, ce n'è anche uno di Vera Viola che parla delle richieste in arrivo dalla Campania. Mancano 30.000 stagionali in Campania, tanto per fare un esempio, e Fitto, perché c'è anche naturalmente la cronaca politica con Emilia Patta e Emanuela Perrone che ci portano un po' su questi tentativi di distensione di Conte con la Bellanova che minaccia le dimissioni, e Ivan Cimarusti che ci racconta esattamente quello che ci dicevi Fabio, cioè il fatto che il lavoro nero vale 4 euro l'ora, ci riporta il dossier dei carabinieri, in un anno trovati in 6.000 senza permesso di soggiorno, pagati appunto 4 euro l'ora, a volte addirittura anche meno. Qui però c'è un aspetto che fa innervosire molto. Noi la manodopera potenzialmente impiegabile nei campi già la paghiamo col reddito di cittadinanza, proprio in Campania, se non mi sbaglio, ma ritengo proprio di no. C'è il numero massimo dei percettori del reddito di cittadinanza che stanno sdraiati sul divano, e si alzassero dal divano e andassero a raccogliere pomodori, perché questo paese non può permettersi l'assistenzialismo, così andiamo a sbattere contro il muro. Quindi su dal divano e nei campi a raccogliere pomodori, perché non è ammissibile che in uno Stato che ha i problemi che ha, con le imprese ridotte allo stremo, con la gente che va incontro a miserie e disoccupazione, continuiamo a distribuire denaro a pioggia a gente che non lavora. Questi vengono già pagati. E tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive: mia moglie bracciante agricola italiana guadagna 3 euro l'ora, questa è la misura poi di quello che ci dicevi prima. Ti porterei, allora, tra l'altro, l'idea di utilizzare chi percepisce il reddito di cittadinanza o altri sostegni al reddito nei campi dovrebbe essere prevista all'interno di questo famoso decreto aprile che poi è diventato decreto maggio. Qua c'è il tema del rinvio a settembre per fisco e contributi, che insomma finalmente arriva, era molto atteso dalle imprese, dai lavoratori, un po' da tutti. Siamo a pagina 3 con Marco Mobili e Rogari, ed è l'apertura del quotidiano. Questo è un punto importante che dà quantomeno qualche certezza, no? E dà anche un sollievo. Questa è una misura che certamente va nella direzione giusta. Però attenzione, il decreto aprile è diventato il decreto maggio, ma come giustamente ha scritto ieri sul Sole 24 Ore un collaboratore del giornale, l'ex ministro Giovanni Tria, occhio, perché un conto è la legislazione d'emergenza e un conto è la legislazione per la ricostruzione. Il decreto aprile aveva una fisionomia di intervento d'emergenza, ma se passano i giorni, se passano le settimane, diventa decreto maggio e continua a slittare, la realtà cambia e quindi probabilmente non c'è più bisogno di un decreto d'emergenza, ma c'è bisogno di un decreto, di un provvedimento per la ricostruzione. E poi attenzione a tutti questi provvedimenti. Tra poco sarà necessario un testo unico per capirci qualcosa, una razionalizzazione. Abbiamo contato oltre 730 provvedimenti, dico 730 e non mi sono sbagliato. Sì, 736 per essere esatti, Fabio. Abbiamo letto ieri. Ma chi ci capisce qualcosa? Ma chi c'ha il tempo di leggerli tutti questi provvedimenti? Provvedimenti dai quali, conto dal quale tra l'altro sono escluse le ordinanze dei sindaci che andrebbero a sommarsi ulteriormente a questo numero. Qui occorre una Wikipedia dei provvedimenti. Potremmo farla, è una buona idea, è una buona idea. Ascolta, voglio chiudere con l'Europa. Oggi abbiamo da una parte i dati di Bruxelles delle previsioni di primavera, ne parla Beda Romano a pagina 9, con dati che ci consegnano un'Italia con una previsione di PIL in calo del 9,5%, 9,4% per la Spagna, Grecia meno 9,7%. E l'attenzione che si continua a essere rivolta alle decisioni della Corte Costituzionale tedesca delle scorse ore e le mosse successive della Banca Centrale Europea, che per il momento, anche perché la Karlsruhe ha dato 3 mesi di tempo, dice che per il momento sta bellamente ignorando, insomma, quello che è uscito dalla Corte tedesca. Ma la preoccupazione non è per quello che sta accadendo adesso, a emergenza sanitaria ancora in corso. Il segnale della Corte Costituzionale tedesca è un segnale chiaro e forte. Se gli italiani pensano che il loro debito pubblico andrà a finire, che lo pagheranno tedeschi, olandesi e così via, è una illusione. Dobbiamo bene metterci in testa questo. Anche se ci andassimo col cappello in mano o battendo il pugno sul tavolo, questi soldi non arriveranno. Questo è il segnale chiaro, inconfondibile, dato dalla Corte Costituzionale tedesca, senza se e senza ma. Quindi i debiti ce li dovremo pagare noi. Ed è questo che mi preoccupa, più della caduta della produzione del prodotto interno lordo. Ci sta, c'è una pandemia in corso, il paese è stato fermo. Sì. E quindi non sono dati, tutto sommato, non rappresenta una sorpresa. Il problema è che cosa accadrà tra qualche mese, e qui cascherà l'asino. Allora, grazie. Perché i soldi li dovremo restituire, e questi soldi non ci sono nelle casse dello Stato. Allora, grazie anche per oggi al nostro direttore Fabio Tamburini, e direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, a giovedì prossimo, ciao, buona giornata. Grazie a tutti. GR24, tra poco con Maria Latella avremo il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, il ministro Boccia, e poi parleremo anche con un virologo, con Lo Palco, magari poi anche di questa storia del plasma, tra poco.